vedere tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo negli studi di Resto Radio Convento e sono in compagnia di... Andrea e Claudio. Buonasera ragazzi. Allora, io sono curiosa di sapere innanzitutto cosa ci fate al convento, cosa state festeggiando? Lunedì al celibato. Di chi, di chi? Di Merenda. Di Merenda? Ah, Merenda, Merenda, aspetta, ma il suo nome non era Merenda? No, non è lui, non è lui. No, lo so, mi ricordo. Lui si chiama Michael. Michael, lui si sì. chiama Michael, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, il cognome fa Merenda. Sì, mi ricordo, mi ricordo. E ditemi un po', come procede la vostra serata? Molto bene, molto bene. Però... Tu mi sa che sei il fighetto della... No. Situazione? Non è no, no, no. Lui piace è il playboy, bene. È vero? Lui, sì, esatto. Lui è il playboy. Si vede. Lui si lavora duro e i giovani non se ne trovano. Lui a lui piace. Ragazzi, andate a lavorare nei cantieri che serve. No, basta. Lui lavora troppo duro. Duro lavora, Lavoravo. Sì. Adesso non più. Imprenditore. Purtroppo si può dire. Sì. Dipende cosa vuoi dire. Perché cazzo devono sempre andare a finestre così? Me lo dici? Ma in cosa? Io sono curioso adesso. È un confessionale? No, lui è un imprenditore. Cioè, gente che cioè investe su se stessa. Su se stessa e purtroppo. E quindi di cosa ti occupi adesso? Sperando nella vita, purtroppo la vita mi ha portato via mia madre da poco e boh, mi sono rimboccato le maniche, vai avanti, si prende in mano quello che faceva lei e boh. Cosa faceva? Sono curiosa, mi dispiace per sua mamma. Tutta la parte burocratica dell'azienda che... Ah, quindi stai... Senti, sei nell'amministrativo. Non mi piace parlare di questa cosa perché... Ah, vabbè, allora chiediamo a lui cosa fa. Bravo, ecco, chiediamo a lui dove cazzo lavora. Al principe di Bel-Air. Dai, che lavoro in testa. Minchia, dai, allora... Io lavoro in un'azienda di consulenza. Come si chiama però? Chi lavora questa impresa? La mia azienda, vabbè, ok. La mia azienda si chiama Star 7. Io lavoro lì come consulente, sono un ingegnere aerospaziale. E per chi lavora? Per chi lavora? Vogliamo saperlo. Per chi lavora? Dipende. La tua commessa? Per chi è? La mia commessa. Io lavoro per Leonardo, una delle più famose imprese d'Italia che è veramente in espansione. Quindi raccontaci. Quindi anche lui imprenditore. No, ma in fondo no, io sì. sono. No, ma io non sono, diciamo no, stronzate. No, non sono, non sono imprenditore, io sono un dipendente. Io dipendente. Però i dipendenti portano avanti le aziende. Non avessero dipendenti. Esatto. Gamba, dove cazzo andiamo a finire qua? Io non farei mai l'imprenditore, ecco. Quello, su quello in sono sicuro. Su quello sono sicuro, non farei mai l'imprenditore. Scherzo. Ma va, lui no, non vuole responsabilità. Lui si fa il suo lavoro e basta. Cazzo, io le responsabilità le ho. Non so cosa. Le responsabilità le ho, ma. Ma mai come un imprenditore. Esatto, però. Esatto. Sono responsabilità diverse. Ogni lavoro ha una responsabilità. Diverse, però... ma direi molto importanti. Sì. Vabbè, anche perché tutto il lavoro sta nel dipendente. Però se non hai ragazzi in gamba, non vai da nessuna parte. No. No. La mano d'opera c'è del dipendente. Sì, ma la mano d'opera per me è il meno della metà del lavoro. Però perché la mano d'opera fa, ma il valutare la mano d'opera e renderla effettivamente un qualcosa di valutabile la fa l'imprenditore. Vabbè, sicuramente, cioè l'imprenditore c'è bisogno di entrambe le figure. Però non possiamo dire che l'una sia migliore dell'altra. No, l'imprenditore sicuramente io da dipendente. Ma è una catena però, no, non puoi dire che... è una catena, ma la catena, cioè il lavoro che dà l'imprenditore è nettamente superiore come valore a quella che fa il dipendente. Ma se posso intromettermi, io direi che se un imprenditore non ha le persone adatte per poter portare avanti la sua azienda, è nullo. Lui parla da imprenditore. È nullo, Quindi abbiamo le due categorie a confronto: l'imprenditore e il dipendente. Quindi non sottovalutiamo i dipendenti. Dipendenti ce ne sono tanti. Ma non tutti hanno le stesse qualità. Certo. Ma il valorizzare favore dei dipendenti. No, io no. Io da dipendente dipendente ho solo rispetto per gli imprenditori, perché si prendono un rischio e un quantitativo di lavoro e di appunto responsabilità che io non prenderei, e che è quello che rende il lavoro effettivamente quello che è. Lo valorizzano in un modo che un dipendente non potrebbe mai fare. Però, cioè, di persone come me ce ne sono 1 milione. Di imprenditori che valorizzano il lavoro che faccio io ce ne sono pochi. Pochi, bravo. Cioè, a me mi prendi oggi, ne prendi domani uno uguale a me che fa il mio stesso lavoro, ma magari non al tuo livello. Esatto, vedi? Cioè, parla l'imprenditore. No, non è vero. Non è vero, dai. No, ma cosa? Però questi sono punti di vista. Lui no, la vede per me così. Non sono punti di vista. Ognuno la pensa in un modo, cioè da dire che siamo in un mondo libero, che ognuno la può pensare in un modo. È vero, libero ignorante. Anche soprattutto, quella è la prima cosa. Sì, soprattutto ignorante. Sì. E quindi tu la puoi pensare da dipendente in un modo e lui da dipendente in un altro modo. Fortunatamente posso dirmi come puoi trovare un altro imprenditore, un altro dipendente che non la possono pensare, esatto, che magari trova non la pensano nella... no, che però trova tante persone come te che magari si sottovalutano, ma alla fine noi le sopravvalutiamo e le portiamo a dove dovrebbero essere, perché alla fine se una persona è in gamba, sa cosa si fa e poi ci crede, mai ci prova, sottovalutarsi sbaglia, nella vita, perché sbagliare è giusto. E anche se sei in settori dove io non sono, in questi settori qui, dove però ci sono i milioni che girano, e hai il coraggio di provare, sbagliare, farti e prendere il culo dal tuo capo, è una cosa molto molto importante e giusta per poter crescere. È l'unico modo per crescere, perché sbagliare è fondamentale per poter crescere, alla fine. O sbaglio? Cosa dice Tamburrano? Ingegner Tamburrano, cosa dice lei allora? Mi dica. Io non la pensa in questo modo. No, non la pensa in questo modo perché ce l'ha fatto capire nei pochi, nei pochi anni che lavoro, vedo che il lavoro che faccio io lo fanno un altro 1 milione di persone al medesimo modo. Poi c'è leggermente meglio, leggermente peggio, però quel leggermente fa la differenza. No, per me no. No, no, perché vabbè, meno... possiamo stare qui fino a domani. Lui non cambia idea, e tantomeno l'imprenditore però non cambia idea. No, dalla parte dell'imprenditore sceglierei quello che cerca di rischiare di più e fallire di più, perché alla fine ti porta a essere una persona che sa molto di più. No. Sì. No, no, perché le differenze che parli tu, il concetto è che siamo veramente troppi, cioè non troppi, però siamo talmente tanti allo stesso livello che ormai scegliere tra uno e l'altro vale veramente pochissimo. Veramente pochissimo. Tu ormai vai a una festa di laurea di ingegneria, ne hai 1 milione uguale allo stesso livello, e hai quello che ti rischia di più, quello che ti rischia di meno, e a mio livello ti rendono bene o male lo stesso. E io ti dico, rischierei di più su uno che ha più le palle di buttarsi e rischiare che su uno che ha paura di rischiare e non buttarsi. Sono punti di vista, ragazzi, c'è da dire. Allora, quello sicuramente un sono punto lato... di vista vincente l'altro. Allora, è il rischiare ma per sicuramente... te però. No, è la realtà dei fatti. Ok. Chi ci prova vince, chi non ci prova non ci avrà mai provato, saprà mai se avrà vinto. È vero, o perso. È vero, però fine. Tu sei un imprenditore che punta. Sono un imprenditore. Sì. Ma tutti gli imprenditori puntano, giusto? Sì, non mi sbaglio. Sì. Alcuni neanche lo sanno. Però alcuni puntano sul vincente. Lui è giovane, ragazzi, e sa che bisogna puntare. Sì, però alcuni puntano sul cavallo vincente. alcuni bisogna anche rischiare nella vita, o punti o non punti, Dio fa, o punti e perdi o punti e vinci, e questo è il rischio, o vinci o perdi, però se non provi non saprai mai. Non è facile buttare su il cavallo che tutti danno per perdente. Ma è quello che fa la differenza, guarda. Perché tutti quanti danno per perdente, e poi se capita che è vincente, guarda quanti loro hai messo da parte e detto: guarda, hai visto, ho scelto il perdente. Sì, ma quanti hanno sul perdente? È quello che fa effettivamente la differenza sull'imprenditore. Ma l'uno su mille che sceglie, diciamo, il cavallo che potrebbe essere perdente, che poi però 999 vanno in miseria. Ma uno almeno deve vincere. Però tu devi guardare il lato positivo. Io non guardo il lato positivo, io guardo la media nazionale. No, bene, allora non è mai da nessuna parte. Allora la nazione non va un cazzo da nessuna parte. La nazione continua ad andare da nessuna parte. No, perché se tu sei un ingegnere che esci da lì, che sai cosa vuoi, che sai cosa fai, dici le tue idee, punta sulle tue idee, poi se saranno giuste o meno vedremo come andrà a finire. Va bene ragazzi, io vi lascio con questo dubbio, ecco, e vi lascio proseguire la serata, facciamo così. Brava. Dai, per non portarla abbastanza troppo lunga. Sì, no, esatto. Va bene? No, non è un cazzo figo, non è un cazzo figo, ho bisogno di un Negroni. Va bene ragazzi. No, io il Negroni non lo bevo più. Li abbiamo già troppo staccati. Okay. Mi sono staccato io, ti immagino gli altri. Ciao.